I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Nel confronto tra il governo italiano e Bruxelles sul giudizio da dare alla nostra legge finanziaria o legge di bilancio, come si chiama adesso, c'è un po' di forma, ma anche della sostanza. La forma è presto detta: Bruxelles dovrà dimostrare che all'Italia non viene dato nessun trattamento di favore, nessun trattamento speciale, soprattutto a un paese come il nostro che già l'anno scorso ne ha ampiamente goduto. C'è anche però della sostanza, nel senso che Bruxelles non apprezza non tanto il livello a cui portiamo il deficit, dal 2,4 scenderebbe al 2,3%. Quello che non piace sono le cosiddette manovre una tantum. In primo luogo tutta l'operazione di rottamazione sui ruoli di Equitalia. L'altra cosa che desta più di una perplessità è l'ammontare stimato di queste entrate. Il governo sostanzialmente pensa di ricavare 12 miliardi di euro da un lato dalla lotta all'evasione e dall'altro anche dalla spending review. Morale della favola: probabilmente Bruxelles ci chiederà di porre alcune correzioni a questa manovra, ma altrettanto probabilmente la manovra passerà. Sullo sfondo infatti resta la variabile politica. L'Europa non si può permettere uno scontro con l'Italia dopo la Brexit e prima delle forti tensioni che comunque le elezioni tedesche creeranno. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Intorno alla nuova edizione della Voluntary Disclosure si è sollevato un gran polverone. La Voluntary è la procedura che serve per far emergere i capitali che sono stati illegalmente portati all'estero, in genere in paesi non trasparenti dal punto di vista fiscale. Si tratta di una forma di regolarizzazione che non è corretto assimilare a un condono, perché per ripulire questi capitali bisogna pagare per intero le imposte evase e le sanzioni amministrative. C'è invece un beneficio dal punto di vista delle sanzioni penali tributarie, mentre restano i reati più gravi come il riciclaggio. La polemica è esplosa perché la nuova edizione della Voluntary renderebbe più facile e meno costoso regolarizzare i capitali in contanti, ma anche gioielli, opere d'arte detenuti in Italia, conservati per esempio nei caveau delle banche e frutto di evasione fiscale. Però qui bisogna essere chiari, perché un conto, come è accaduto con la Voluntary Disclosure, è consentire una sanatoria pretendendo però il pagamento di tutti gli importi, di tutte le sanzioni evase. Un altro conto è, come sembra accadere invece sui guadagni in nero conservati in Italia, è proporre un sistema di pagamento a forfè, che se anche non è giusto, corretto definire un condono fiscale, certamente è una cosa che molto gli assomiglia. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.